Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sono tutti interessati, tra l'altro, a sapere se ti fermi qui. Nel senso, mi viene da dirti bentornato in Italia, manca poco più di un'ora alla fine del calciomercato. Che fai, rimani o prendi un volo di ritorno? Sono venuto per restare qua. Sono venuto per restare in Italia, non lo avevo detto, adesso ti do la conferma a te. Veramente? Sì. Su che sponda? Non te lo posso dire ancora, però sono venuto per rimanere qua. Questa è una notizia, che notizia meravigliosa, sì. Per il calcio italiano siamo veramente contenti, però la risata, non so, mi fa dubitare che forse mi stai prendendo in giro. Volevo dire che è entrato il tuo fidanzato Federico, è entrato Alessio Cerci, l'ho visto sì. Che entrava, perché fai quella faccia? Perché manca poco. Secondo me non ha senso quello fa entrare a questo, cioè, lo fa entrare gli ultimi 10 secondi, sinceramente. Sì. Non è carino. Se dovessi ascoltare il parere dei tifosi, che poi tra l'altro hanno una chance, invece di scrivere su quelle tastierine che si mettono lì a menarsela su o giù, no, a fare i calcoli in casa nostra, no, come, quando l'abbiamo venduto, cosa l'abbiamo venduto, bisogna fare i messaggi d'amore, invece di fare i messaggi d'amore venissero qua, visto che sono tanti, penso che siano 20.000, mettessero 100 euro a ciascuno e teniamo Belotti tutta la vita. Intanto ringrazio i napoletani che mi hanno fatto questo regalo di venire a vedere il film Natale con il boss, che devo dire l'agenzia di Napoli è la prima d'Italia in assoluto, e quindi vuol dire che quella mia proposta di regalarvi un giocatore importante che stiamo cercando verrà mantenuta. Allora, intanto devo dire due cose. La prima, che a parte De Laurentiis di 3 giorni fa, non ci sono audio nuovi in questa carrellata sonora che segna l'apertura ufficiale del calciomercato invernale. Oh, poi la seconda è per un amico che scrive già al 349-238-6666 chiedendo se la trasmissione ha cambiato orario. Amico, siamo qua, 800-24-0024, prenotatevi al centralino 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, perché oggi facciamo le carte del mercato. Mancano ufficialmente 27 giorni, 8 ore e 50 minuti più o meno, qualche secondo meno, bisogna essere precisi, alla fine della finestra invernale. Mercato che si è aperto ufficialmente questa mattina con botti clamorosi, direbbero quelli bravi, poi ve li diamo. Ci terrà compagnia per un mese, servirà, boh, chissà, a qualcosa, forse sì, forse no. Sarà una prova anche fisica per giocatori, tifosi, dirigenti, procuratori, anche per i giornalisti. Saluto Michele Criscitiello di Sport Italia. Ciao Michele. Ciao, ciao Giovanni, buon pomeriggio. Ciao. Sarà un mese bello impegnativo. Abbastanza, abbastanza, però possiamo dire che qualcosina di importante si farà e in molti dovranno riparare. Poi aspettiamo, come avete appena fatto sentire ai radioascoltatori, il colpo di De Laurentiis, perché il Napoli sta lavorando su un difensore e su un centrocampista all'estero, e poi c'è, secondo me lo possiamo definire non un giallo, ma un ritorno al giallo che già c'era stato in estate, quello di Manolo Gabbiadini. Bisogna uscirne e ad oggi siamo abbastanza lontani dalla soluzione, Giovanni. Cioè, bisogna capire dove va, se si muove e come lui tanti altri, perché questo tra l'altro è un calciomercato particolare, è l'ultimo prima degli europei e quindi insieme ai procuratori e ai direttori sportivi ci sono anche i CT. Non solo Conte, anche Del Bosque in Spagna. Abbiamo visto che insomma sta muovendo, sta facendo capire ad esempio a Disco che deve giocare se vuole tenersi la maglia da titolare della Spagna, e allora potrebbe entrare in gioco la Juventus, non lo so. Comunque abbiamo un'ora per parlarne con Michele Criscitiello, con altri ospiti, con tutti voi che vogliate intervenire. 800-24-0024. Oggi cerchiamo di dare spazio il più possibile alle vostre curiosità, considerazioni, domande, e quindi chiamate e scriveteci. C'è Massimiliano da Udine che scrive già un WhatsApp: diteci qualcosa sul mercato dell'Udinese. Cosa diciamo del mercato dell'Udinese? Arriverà sicuramente un centrocampista, arriverà dall'estero e poi si sta cercando una punta. Quello che possiamo smentire a Giovanni è sicuramente che non arriverà Manolo Gabbiadini, perché si era parlato di un prestito. Gabbiadini non andrà in prestito, si andrà via soltanto a titolo definitivo, c'è qualche richiesta dall'Inghilterra. L'Udinese però dovrà fare i conti soprattutto con le partenze prima degli acquisti, perché Pasquale in scadenza di contratto il 2016 cerca sistemazione, Domizzi un'altra bandiera che lascerà Udine dopo Pinzi andrà al Pescara, poi Marchigno potrebbe andare al Torino, ma ancora non c'è stato un contatto ufficiale. Per quanto riguarda invece i ritorni, Berkic lascia il Carpi e tornerà all'Udinese. Insomma, questo è per l'Udinese in 30 secondi, ma abbiamo tempo un'ora poi per, anche se volete, per tornarci su. Il tema di vendere ovviamente non è tema che riguarda soltanto l'Udinese. Oggi primo giorno di mercato un po' come il primo giorno di scuola, tra i buoni propositi tutti sono convinti di avere il tesoretto in tasca, il Napoli 15 milioni se vende 4 giocatori, Inter e il Milan che hanno la lista in uscita lunghissima, poi vedremo il primo febbraio ore 23 chi sarà riuscito a piazzare qualche colpo in uscita. Sì, tra l'altro grande c'è una curiosità, esercizio di grandissima difficoltà. Tra l'altro c'è una curiosità, se vogliamo definirla tale, perché quest'anno il calciomercato al lato hotel si riduce sempre di più, prima erano 2 settimane, poi è diventata 1 settimana, poi gli ultimi 4 giorni, adesso il calciomercato l'ultimo giorno di mercato sarà aperto con lato hotel, altrimenti poi tutti sono liberi di fare affari in diversi alberghi di Milano e la sede ufficiale è sempre meno ufficiale se non l'ultimo giorno. Tutti hanno un tesoretto, l'unica squadra che potrebbe avere un tesoretto è la Juventus, perché glielo consente il passaggio del turno in Champions League, glielo consentono gli incassi, quello che comunque ha fatto negli ultimi anni grazie ad un bilancio. La Juventus a mio avviso ha fatto un doppio miracolo sul campo ma anche sui libri contabili. Questo è molto molto importante ricordarlo, perché anche lo scudetto finanziario economico bisogna ricordarlo. Pesa e conta, pesa e conta. Certo. E poi c'è, come dicevamo, il Napoli, che invece l'ultimo bilancio l'ha chiuso in passivo, però è un passivo già tutto studiato e calcolato. Il Napoli un difensore, un centrocampista e un attaccante in prestito lo farà. In prestito. Sì, colpi di oggi, abbiamo detto che poi in realtà si trattava semplicemente di ufficializzare, perché da questa mattina si può alcune operazioni chiuse nei giorni scorsi, ad esempio la Sampdoria ha messo sotto contratto Riccardo Alvarez, ex Inter, ex Sunderland, fino al 30 giugno e potrebbe già debuttare domani nel derby contro il Genoa. Poi c'è il Milan con Boateng, c'è il Palermo con Arteaga, c'è il Verona con un altro svincolato come Emanuelson, che magari potrebbe anche lui debuttare domani, mercoledì contro la Juventus. Poi vediamo il Genoa tra Suso, Rigoni sì. è praticamente già ufficiale, e poi ci sono tante altre voci. 800 24 00 24. Aspettiamo le vostre chiamate, 349-238-6666, sms e whatsapp. Abbiamo un'ora per parlare di mercato con Michele Criscitiello. Traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, qualche domanda. All'Inter conviene vendere Brozovic per prendere un altro trequartista? A gennaio? No. È impensabile vendere un top player a gennaio per cercare di fare una plusvalenza, importante che sia, ma non si può assolutamente, anche perché l'Inter, lo sappiamo, lo diciamo da tempo, ha una situazione con le banche economica molto più importante di una vendita di un singolo calciatore. Va bene Kovacic a giugno, luglio, agosto, ma a gennaio deve essere un mercato molto più intelligente ed oculato, anche perché molto più pericoloso. Ricordiamo, noi parliamo spesso di Serie A perché ovviamente la gran parte del pubblico, Giovanni, vuole sentire la Serie A, ma la Serie B è un valzer continuo. Tra l'altro il campionato ricomincerà il 16 e il 17 gennaio, hai la lista bloccata, quindi se ne esce uno ne puoi mettere uno dentro, altrimenti non puoi fare operazioni. Brozovic assolutamente no, resterà in nerazzurro. Poi c'è un diluvio di consensi su Cerci. Il suo futuro, dove va via, resta? È vero che il mercato del Milan è bloccato da Cerci? Questo è grave perché noi ovviamente quando parliamo di mercato guardiamo sempre al presente e guardiamo al futuro, però dobbiamo essere anche abbastanza onesti, perché noi non dimentichiamoci che l'anno scorso con le immagini, le riprese televisive, eravamo allenate in Malpensa per accogliere gente come Shaqiri e Podolski, poi sono andati via, nessuno se ne è accorto, anzi sono usciti dalla porta secondaria. Cerci era arrivato al Milan per risolvere i problemi del Milan e invece abbiamo avuto la dimostrazione che il Milan non ha saputo utilizzare un giocatore come Cerci. Adesso Minoraiola ci vuole far credere che Balotelli deve tornare alla Liverpool. Ma se fino a sei mesi fa il problema di Balotelli era il Liverpool e l'hai riportato al Milan, l'hai riportato in rossonero, adesso lo devi riportare al Liverpool. Secondo me i procuratori devono stare molto molto attenti, perché gestire un giocatore di questi tempi, e soprattutto nel mercato di riparazione, quando a ridosso c'è un europeo come quello francese di quest'anno, devi essere molto molto attento e cauto. Sì, il mercato serve soprattutto a loro, chissà quanto serve alle squadre. Saluto Nanu Galderisi, ciao Nanu. Ciao Giovanni, Michele, buongiorno. Buongiorno a te. Ciao, mister. Quanto serve il mercato di gennaio alle squadre? Qui poi ci sono scuole di pensiero diverse. Io ad esempio, ne abbiamo parlato anche ieri in trasmissione facendo qualche nome, attenzione a dire che a gennaio non si compra bene, perché poi c'è chi ha dimostrato di aver cambiato il senso di una stagione comprando a gennaio, però non capita sempre. A chi serve? Ho ascoltato quello che ha detto Michele, condivido pienamente quello che ha detto. Attenzione a quello che si fa, perché a chiacchiere siamo tutti bravi, ma in realtà quello che poi può servire a ogni squadra non collima sempre con il gioco e il giro che c'è intorno a questo mondo, dove si prendono giocatori importanti e poi si trattano, non ci si mette l'amore possibile per farli rendere e poi li diamo via come se niente fosse. E questo per noi non va bene. Noi abbiamo bisogno di certezze, le certezze, parlo sotto l'aspetto del mestiere che faccio io, insomma, l'allenatore. È un momento molto delicato per gli allenatori, perché la gestione di giocatori che devono uscire o che non sono felici, i procuratori che rompono le scatole, ci sono tante piccole cose che non aiutano un mercato così lungo, e secondo me è troppo lungo per poter lavorare bene e pensare esclusivamente a far bene il proprio lavoro attraverso le partite che vengono, che sono fondamentali. Sì, vi leggo gli acquisti più cari delle ultime sessioni di gennaio: 2015 Dumbia alla Roma, 2014 Hernanes all'Inter, 2013 Balotelli al Milan, e in quel caso funzionò, perché sì. Balotelli fece tanti gol per la rimonta del Milan. 2012 Edu Vargas al Napoli. Questo è il quadro delle ultime sessioni di gennaio, direi sconfortante, però ripeto, c'è poi anche chi ha pescato bene. Adesso vediamo anche di recuperare Nanu Galderisi, che è caduto. C'è chi chiede chi prenderemo tra Rossi e del Sharawi. Se Rossi esce in prestito, cessione definitiva. Ma noi possiamo rispondere al radioascoltatore fino a domani mattina. Sono tutte minestre riscaldate, non frutti di progetti. Io posso anche prendere Giuseppe Rossi, che è un grandissimo talento, però con il dubbio che tra un mese torniamo punto e da capo, perché il ragazzo comunque negli ultimi 2-3 anni si è fermato con una certa costanza, purtroppo per oggettivi problemi fisici. E sicuramente qui non stiamo a giudicare il valore di Giuseppe Rossi, ma la Fiorentina, prima di cedere Giuseppe Rossi, si sarà fatta dei ragionamenti, si sarà fatta delle domande e anche delle risposte. E Sharawi è lo stesso problema, non è stato gestito bene al Milan, adesso è andato al Monaco, il Milan è arrabbiato perché pretendeva il prestito con diritto di riscatto. Ma tu non ti puoi arrabbiare con il Monaco, si chiama prestito con diritto di riscatto, non è obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto non può esistere se non in una situazione morale. Allora come vuoi pretendere che il Monaco debba riscattare a tutti i costi un giocatore che oggi non ha convinto? No, e oggi adesso, si parla adesso, del Genoa, adesso devi piazzarlo. Tu punteresti su El Shaarawy, Nanu? Io sì, sono rimasto molto sorpreso quando il Milan non ci ha puntato più, perché sono giocatori che devi saper gestire. Sono d'accordo con Michele, non puoi scherzare con queste cose qui, perché non abbiamo, cioè, i nostri talenti li diamo via, li trattiamo male, poi li riprendiamo e non diamo assolutamente continuità a quello che è il nostro obiettivo. Anche si parlava di Cerci, per me Cerci è un giocatore assolutamente da non perdere, il Milan deve assolutamente gestirlo meglio, cercare di tirarlo fuori, perché è un talento, come la gestione di Balotelli. Ci sono tanti giocatori che sembra che si gioca più sui tavoli che sul campo, questa è la verità. Chi è che ha più da guadagnare da questo mercato o meno da perdere? Il mio personalissimo voto è per il Napoli. Se il Napoli si muove bene, Napoli diventa davvero una squadra da scudetto, nel senso anche di profondità della rosa. Sì, secondo te? Sì, sì, allora sul Napoli sono d'accordo, è una squadra che sto seguendo molto e devo dire che ha tutte le possibilità, le qualità per poter arrivare fino in fondo facendo grandi cose. Quello che gli manca è esclusivamente una rosa più completa. I primi 12, 13, 14 giocatori secondo me riescono a dare quello che Sarri chiede, e qui permettetemi di dire che secondo me Sarri deve essere fondamentale nella scelta, insieme giustamente al direttore sportivo, ma Sarri deve essere importante per scegliere giocatori a lui congeniali e soprattutto che siano pronti per dare cambio a quei a quei giocatori che stanno facendo veramente cose importanti. Sì, Sarri mi sembra che abbia smesso i panni di quello che diceva quest'estate: non ho neanche il numero del direttore sportivo, non lo sento mai, aspetto che mi dica poco. Che cosa ha fatto. È durata poco, anche perché comunque Giuntoli, io continuo a ritenere Giuntoli non un direttore sportivo ma un direttore sportivo, ed è l'unico in Italia anche vice allenatore, non a caso va in panchina, ed è un caso raro che io personalmente possa apprezzare un direttore sportivo in panchina. Bigon urlava col quarto uomo, Giuntoli invece si è visto in un'immagine alla televisione con Sarri che si gira a Bologna verso Giuntoli, Giuntoli dà un segnale. Questo cosa significa? Giuntoli sa dove mettere le mani. È vero anche che forse 2-3 giocatori di innesti il Napoli ne avrebbe bisogno, ma attenzione a mettere le mani ad una squadra che funziona, perché oggi noi pensiamo di andare a migliorare una rosa che funziona, poi invece fai dei danni. Valdifiori finora il Napoli l'ha visto solo in Europa League, e poi l'ho detto ad inizio trasmissione, Giovanni, oggi noi dobbiamo ragionare, se vogliamo parlare di Napoli partiamo da Gabbiadini. Dopo aver capito cosa vogliamo fare con Gabbiadini, parliamo di tutto il resto, perché la chiave del mercato del Napoli, che sia entrata o che sia uscita, si chiama Manolo Gabbiadini, che lui vuole giocare, perché lui non vuole perdere l'europeo. Sì, c'è anche un amico che scrive: che senso ha cercare un attaccante quando Sarri ha già chiarito che Gabbiadini sarà la riserva di Higuain, però questo non è il problema. Serve un altro. Ragazzi, questo è il problema. Gabbiadini non vuole essere la riserva di Higuain, perché non sei la riserva di un attaccante normale. Ah, ok, gioco una partita io e una lui. Non puoi togliere il posto a Higuain, perché Higuain è uno degli attaccanti più forti al mondo, e non puoi bruciare un patrimonio italiano come Manolo Gabbiadini. E il ragazzo, insieme al suo agente Silvio Pagliari, vogliono far passare un concetto che Sarri però non coglie. E qui parliamo di tecnica, e se vogliamo parliamo anche di tattica con Galderisi, che è un allenatore, Giovanni, perché lui dice: ma perché Pioli lo utilizzava da esterno? Perché Mihajlovic lo utilizzava da esterno? E invece Sarri non lo vede minimamente da esterno, ma lo vede soltanto come vice Higuain. Perché Nanu? Perché? Io credo invece che Gabbiadini sia il giocatore perfetto per vari ruoli. Lo può giocare dietro la punta, può giocare insieme a Higuain, può giocare esterno nel 4-3-3, può giocare dovunque, ed è un giocatore troppo importante, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto tattico, perché secondo me se è riuscito a dare spettacolo, a fare grandi cose in squadre leggermente diverse dal Napoli, ma con mentalità e con idea di tattica simile a quella che ora sta sviluppando Sarri, credo che è un giocatore che non devi assolutamente perdere, ma devi dargli la giusta importanza, e non devi paragonarlo, giustamente come ha detto Michele, a Higuain, perché sennò io vado via, io vado via, assolutamente, parto. Sì, anche perché a quel punto non gli conviene stare la riserva di uno come Higuain. Abbiamo ancora un paio di minuti. La Roma ti convince l'idea che possa essere riscritta quasi da zero nel mercato di gennaio? No, io starei molto attento perché la Roma credo che non sia un problema di giocatori, sia un problema di insieme. Ho visto una Roma qualche tempo fa unita, compatta, che giocava un calcio brillante, giocava un calcio rapido, corto. Ultimamente si stanno allungando, si aiutano di meno, ma i talenti ci sono, bisogna solo metterli in condizioni di farli sentire giocatori importanti, di lavorarci bene, di dargli la giusta posizione in campo e crescere come squadra. Io non credo che se cambi due giocatori alla Roma, la Roma diventa più forte, perché non ci sono giocatori più forti della Roma. Devi mettere in condizioni questi giocatori di esaltarsi attraverso la convinzione di quello che trasmette l'allenatore e alla convinzione tua personale nei confronti di un gruppo che deve crescere, perché la squadra Roma è forte. Però Michele, l'idea di mettere insieme Perotti del Sharawi è affascinante, sì. Alla Sabatini, come idea di mercato di gennaio. Sì, può essere anche, è una scommessa, come tutte le scommesse le vinci o le perdi. In questo caso il Sharawi è reduce da anni negativi, anche e soprattutto perché, lo ricordiamo, ha avuto dei problemi fisici, e il Milan, così come Pato, così come Cerci, il Milan purtroppo negli ultimi anni sta bruciando allenatori e giocatori e non ne sta valorizzando mezzo, quindi il problema del Milan è abbastanza chiaro. Leggo anche un po' i radioascoltatori che scrivono, stavo dicendo telespettatori, pardon, e quindi ormai è un vizio di forma. Per quanto riguarda Gabbiadini, Napoli no, non ti permettere, non vuole vendere Gabbiadini. Signori, se vogliamo dire una cosa la diciamo, se vogliamo dire quello che vogliono sentire i tifosi diciamo che Gabbiadini è contento di essere. C'è anche qualcuno che chiede su WhatsApp 349-238-6666 perché l'Inter non ha fatto uno sforzo per prenderlo Gabbiadini. Ha fatto ma l'Inter uno sforzo, l'ha fatto, ragazzi, l'Inter l'ha fatto lo sforzo, bisogna essere Napoli, due. No, ma più che a parte bisogna essere in 3-4 perché di mezzo c'è anche il procuratore del ragazzo, che è Silvio Pagliari. L'accordo l'Inter con il ragazzo, con Gabbiadini, l'aveva trovato in estate, però 18 milioni, 20 milioni al Napoli non bastavano. Il Napoli chiede per la cessione di Manolo Gabbiadini 25 milioni di euro. Questi soldi qualcuno a gennaio li vuole mettere sul piatto per Gabbiadini? La risposta è no. Se il Napoli deve allora perché il Napoli deve decidere cosa fare? Se il Napoli vuole vendere Gabbiadini e ottimizzare, arrivare a fare una plusvalenza e portare a casa 25 milioni di euro, gennaio non è il mercato ideale. Gabbiadini vuole restare a Napoli, è vero, ma mi devi trovare un ruolo. Quello di vice Higuain è un ruolo che mi sacrifica e mi fa perdere l'europeo. Cosa vogliamo fare? Punto di domanda. Credo che alla fine resterà lì. Lì dov'è Gabbiadini? Ultime due domande per Nanu Calderisi. La prima è: cosa serve alla Fiorentina per essere da scudetto? Oddio, a me la Fiorentina... Quindi lo terremo come guida poi per capire quali sono le prossime mosse. Ma guarda, a me la Fiorentina piace moltissimo, però in effetti c'è qualcosa che mi sfugge. È una squadra che è cresciuta moltissimo, questo malumore di Rossi sicuramente non aiuta tutti. Io credo che non deve perdere assolutamente nessun talento, perché il modo di giocare della Fiorentina secondo me è perfetto. Qualcosa ci vuole, ma come tutte le squadre che cercano di cambiare il volto devono stare attenti a non rovinare tutto quello che di buono hanno fatto. Io credo che se va via Rossi, e credo che andrà via perché la sua infelicità rende tutto più complicato, ci vuole sicuramente qualche attaccante. Io credo qualche cambio in mezzo al campo per dare possibilità, anche se di giocatori come gioca ne ha tanti, ma io guarderei piuttosto lì davanti gente che faccia gol oltre che Kalinic, perché sennò diventa complicato. Sì, diventa complicato. L'ultima è di un amico, credo tifoso dell'Hellas. Potete chiedere al grande Nanu se il Verona si salverà. Assolutamente, io ci credo. Attendevo assolutamente no, dalla partenza. No, io credo che questo sia un anno molto particolare per il Verona. Uscire da questa situazione è molto complicato, non tanto per i punti che mancano, ma tanto per la convinzione di quello che fai. Tutto quello che fai, a volte sono delle stagioni dove ti gira tutto male e non riesci a capire il perché. Gli infortuni, le difficoltà hanno creato veramente quello scoramento che non ci deve essere. Io credo che Del Neri abbia dato un pochettino di entusiasmo e abbia cambiato un attimino il cammino del Verona, ma da qui a salvarsi ci vuole continuità e risultati importanti. E spesso, quando per esperienza, quando tu cerchi qualcosa, c'è sempre qualcosa che ti gira male, ma la convinzione di potercela fare devi avercela, perché il campionato italiano ha dimostrato che tutto è possibile. Sì, tutto è possibile a patto di cominciare a correre, perché il Verona, insomma, certo, di punti ne ha davvero pochi. Andando a Torino iniziamo già male. Non è la migliore partenza per il 2016. No, bisogna focalizzarsi sul Palermo, che è una squadra che puoi battere, e in casa devi avere molta più concretezza, perché gli scontri maggiori e più importanti ce l'hai in casa. Grazie a Nanu Calderisi. Grazie a voi, buon anno. Ciao Michele, un abbraccio. Ciao Nanu, ciao. Ciao Nanu, grazie, buon 2016. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate sul mercato. Poi parleremo anche della Ferrari dopo il GR delle 15. Oggi grande giorno della quotazione, e Marchionne ha detto parole importanti. Ha detto che il 2016 deve essere l'anno del ritorno del campionato mondiale a Maranello. Adesso c'è la borsa. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Parte Balotelli col destro, eccolo, 1-0 Milan, fallo in spack e sorride pure. Tonight I will make you a nice video with fireworks. Now I'm just talking traffic, but yeah, be careful with fireworks, and I will wish you the best New Year's ever, because this year been shh. Okay, I just said I'm gonna do it, and I'm doing it. He's doing it. He's doing it. He's doing it. Happy New Year! We inspiration for the black youths. It's motivation through that boost. I can educate you. Oh, non so se avete visto il video di questi giorni di Balotelli, che si allena, che fa gli auguri di buon anno. Poi ieri le foto in giro a Milano a fare shopping, lui, Pogba, e Mino Raiola. Qualcuno ha cominciato a dire chissà, magari. Sì, sì, no? Ma queste sono tutte idee di Mino, attenzione, questo ovviamente Balotelli è uno che twitta, posta spesso foto su Instagram, però sono tutte idee di Raiola per portare attenzione in questo momento su Balotelli. Pogba non ne ha bisogno perché sappiamo che sarà un'operazione, se sarà un'operazione, comunque in uscita della Juventus a giugno, luglio ed agosto, mercato estivo, però Balotelli, ormai possiamo parlare di Balotelli perché lo vediamo su Instagram, perché lo vediamo su Twitter, perché Raiola casomai parla di Balotelli che deve tornare a Liverpool dopo che ha fatto Italia, Inghilterra, Inghilterra, Italia. E sinceramente oggi Balotelli non ha un preciso valore di mercato, neanche sì, tecnico. Paolo da Padova, ciao ragazzi, secondo me la Juventus dovrebbe puntare su Isco e non su Gundogan e poi su un difensore centrale in prospettiva, però in prospettiva a Rugani, a Rugani che finalmente ha ricominciato, ha rifiutato la Juve 25 milioni a mettere dal piede Napoli in campo. Ecco, su Isco invece è una di quelle idee che può nascere dall'intreccio col fatto che siamo nell'anno dell'europeo, sì. Isco che continua a stare fuori, però stiamo parlando di giocatori che costano tanto, forse troppo per il mercato di gennaio. Sì, se parliamo di 30-35 milioni di euro, noi dobbiamo fare e dobbiamo partire da un presupposto che ovviamente chi ci ascolta non deve essere preso in giro. La Juventus in questo mercato ovviamente ci interessa, diciamo che la Juventus prende Gundogan, prende Isco, possiamo dire quello che vogliamo, però poi alla fine i telespettatori o i radioascoltatori ti presentano il conto quando arriva il 3 febbraio, il 2 febbraio. Il problema principale è che la Juventus in questo momento ha le idee non chiare, di più cederà un 97 in uscita per farlo giocare probabilmente in Serie B, che è vitale. Riprende Pasquato dal Livorno perché il Livorno lo cede, riprende Rossetti dal Cesena perché il Cesena vuole prendere un'altra punta, farà delle operazioni secondarie. Per quanto riguarda le operazioni principali, la Juventus ha rifiutato 25 milioni di euro per Rugani dal Napoli e 27 milioni di sterline dal Crystal Palace e qualcosa in meno dal West Ham per Zaza. Se la Juventus avrà un'occasione per fare mercato, allora non si farà cogliere impreparata, perché Gundogan a queste cifre non può arrivare, così come non può arrivare Witzel, che sono giocatori che la Juventus sta monitorando da tempo. Se invece non dovesse arrivare un'occasione di questo tipo, la Juventus resterà così e non farà operazioni particolari a gennaio per il motivo che dicevi prima tu. Bisogna vedere anche se Zaza ha voglia di restare, altro giocatore che ha la tentazione di andare a prendersi qualche minuto in più per non perdere l'europeo. È sempre questa la lista di Gabbiadini, di Zaza, di Pellè e di Immobile. Però mettiamoci soprattutto nei panni delle società. Chi comanda non sono i giocatori e in teoria non sono i procuratori. Le società forti comandano loro. Il Napoli è una società forte, per il momento comanda il Napoli. La Juventus è una società forte, comanda la Juventus. Zaza è alla Juve. Se poi vuole andare a giocare, qualcuno mi porti i miei 30 milioni di euro, perché io valuto 30-32 milioni di euro e poi casomai vado a prendere Gundogan a 35. Ma altrimenti la Juventus è libera e ha la forza economica, tecnica e progettuale di dire aspettate perché decido io e comando io. Sempre sulla Juve poi c'è la questione Mandragora che non è ancora chiuso, ma lo chiuderà nei prossimi giorni. C'è anche qualche altro giovane che si sta muovendo. Chiede un amico Caceres, questo duello tra Inter e Milan con in mezzo la Juve, la se Juventus è vero che risponde si se è vero che mi portano 12-15 milioni di euro. Io Caceres credo impossibile 12-15 milioni di euro per un giocatore che va in scadenza fra sei mesi, ma non esiste. Però la Juventus, ripeto, dal canto suo ha la forza di dire se mi porti una doppia cifra per Caceres, allora è libero di andare al Milan o all'Inter, il prezzo poi ovviamente lo fa il mercato, altrimenti anche Caceres resta, perché poi la Juventus, attenzione, non ha una rosa di 25, 28, 30 giocatori, ha una rosa tra virgolette ristretta. Tanto hanno fatto in estate per cercare di rifondare questa Juventus con Dybala, con Mandzukic. Adesso hai trovato la quadra giusta dopo due mesi, tre mesi di difficoltà iniziali. Oggi la Juventus lavora sul materiale che ha costruito in estate e sicuramente non andrà a stravolgere né in entrata né in uscita il mercato bianconero. A volte ritornano, oggi è tornato anche il nome di Fellaini sui giornali, accostato al Milan addirittura. Stiamo però anche qui parlando di operazioni da 20-30 milioni di euro e pensare di chiuderle in prestito è credo difficile. E poi c'è il grande tormentone Lavezzi. Noi tutti i giorni, a chiunque interviene, a tutti i convocati, faremo la domanda sul Pocho Lavezzi. Anzi, 800 24 00 24, da oggi apriamo in seduta costante, che non chiuderemo più, il nostro osservatorio su Lavezzi fino al 1 febbraio. Diteci se lo vedete in giro, se lo vedete in un aeroporto, in un hotel, in un bar, in un ristorante. Diteci anche con chi a questo punto, facciamo un po' di gossip. Se qualcuno vi racconta che la mia, saputo dall'amico che ha la cugina, il cui fratello lavora in un'agenzia immobiliare e che ha saputo che Lavezzi sta prendendo casa a Milano, a Torino, a Roma, non lo so. Scegliete voi dove va Lavezzi. Lavezzi è un giocatore che secondo me può essere e può essere considerato un affare in scadenza di contratto. Dipende se dovesse arrivare in questo mercato di gennaio a 4-5 milioni di euro, allora il gioco può valere la candela. Ovvio che non mi allontanerei più di tanto tra Inter e Juventus. Anche se oggi i francesi sull'Equipe scrivono che non ha prezzo Lavezzi, nel senso che il Paris Saint-Germain non lo vende, non lo fa partire, e quindi si torna a giugno, a quando andrà in scadenza, e a quel punto vedremo anche quanto chiederà di ingaggio. Degli amici chiedono di Cagliari, ha firmato o no? Sì, arriva lui sta o no? Partendo, adesso deve fare le visite mediche, sta partendo, in Argentina sono sicuri, a firmare non ha firmato, però i presupposti affinché questo avvenga ci sono tutti. L'Inter una sera a Sport Italia, ricorderai quando abbiamo parlato di Cagliari, è un giocatore che di sicuro può fare la differenza. Io credo non subito in questa Inter, quindi ha bisogno di una tappa di avvicinamento, però dobbiamo stare comunque attenti alle varie operazioni. Si parlava di Cagliari parcheggiato a Bologna, il Bologna sta cercando realmente un attaccante. Ieri c'è stato un contatto telefonico direttamente tra il Carpi e il Bologna, tra Corvino e Romairone per Borriello, quindi anche la vicenda Borriello va seguita. Per Cagliari io credo che però se il Bologna è a destro prende Borriello, cosa se ne fa di Cagliari? Appunto, infatti non è detto, uno dei due è di troppo, quindi se arriva Borriello, Borriello comunque non è un piano A, dovrebbe essere un piano B/C, quindi comunque tu quando fai il mercato, almeno con direttori importanti, funziona così: ti serve l'attaccante, valuti 4-5 nomi, 2-3 nomi, almeno 2-3 nomi, contatti 4-5 procuratori e poi aspetti. Aspetta che chiediamo a un procuratore di quelli importanti, Pierfilippo Capello, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, come state? Buon anno. Bene, buon anno anche a lei. Chi si muove per primo sul mercato? Dai, facciamo un po' le carte a quello che sta per succedere. No, non lo so, veramente, guardate, queste domande non sono la persona adatta a rispondere, perché chi mi chiede di dargli la mano lo fa chiamandomi in qualità di avvocato, e quindi non posso fare nessun nome. Però ho la sensazione, più che la sensazione, la certezza che si stiano muovendo in tanti, ma quello è sicuro. Poi chi riuscirà a portare a casa tutto i progetti non lo so, però si stanno muovendo in tanti. È tornato qualche soldo anche in Italia? Sì, è tornato qualche soldo, ma soprattutto è tornata nei giocatori di livello la consapevolezza che venendo a giocare in Italia si può fare bella figura e si ha, non dico la certezza, ma la probabilità di essere pagati, che oggi come oggi è una cosa quasi più importante dei numeri che sono scritti sul contratto e la certezza di prenderli quei soldi lì. Quindi fino a qualche anno fa in Italia, l'Italia sembrava quasi un porto delle nebbie in cui non ti vede più nessuno e non ti pagano neanche. Invece l'immagine del nostro calcio sta nuovamente risalendo, quindi vengono e, tanto senza fare nomi, ma i procuratori, gli agenti che telefonano dicono: sarebbe il mio ragazzo sarebbe interessato a un'opportunità in Italia, senza neanche essere troppo schizzinosi sul livello del club. Questa è una rivoluzione rispetto anche a come, Michele, siamo abituati a considerarci. Quindi l'Italia, con tutti i suoi problemi di calcio, è un campionato, almeno a livello di Serie A, e forse anche Serie B, che paga. Quindi ha ritrovato un suo appeal. Oggi su Tutto Sport c'era l'appeal ritrovato della Juve verso i top player, ma quello è un altro discorso. È discorso di prestigio, di piazza. Saluto con affetto l'avvocato Capello. Direttore, buongiorno, come stai? bene, grazie avvocato, è sempre un grandissimo piacere. L'avvocato Capello è uno che può parlare davvero di tutto, può parlare di calcio, di mercato, di economia, di finanza e di aspetti legali, perché anche quando viene ospite nella nostra trasmissione è sempre super informato anche di quello che non dice. Lui è molto più informato di quello che ufficialmente poi dice. Il discorso è molto molto semplice e l'avvocato lo sa bene. Noi abbiamo 1248 difetti al secondo nel nostro calcio, però la Serie A e la Serie B o paghi i giocatori o paghi. I giocatori sono assolutamente tutelati in Italia. Tu non puoi pensare di non pagare o di pagare in ritardo, perché dopo un mese ti arrivano i punti di penalizzazione oppure ti arrivano delle irregolarità amministrative, e lo sappiamo bene come funziona. In Italia gli unici garantiti di non perdere mai soldi, tranne se ovviamente la società fallisce, quindi nel caso su 42 società tra Serie A e Serie B, parliamo sempre del rischio di 2, 3, 4 società, perché comunque sono a volte sull'orlo del fallimento. È successo solo una volta, quindi vabbè, per tra Serie A e Serie B, non solo una volta, però sappiamo che tutti gli altri pagano altri calci, altri movimenti. Mi viene in mente la Spagna, di cui parliamo bene, ma anche a ragione dal punto di vista tecnico, storicamente in questi anni hanno vissuto vicende diverse. Vi devo fermare un minuto perché c'è il traffico, però poi torniamo con Pierfilippo Capello, con Michele Criscitiello. 800 24 00 24 per le vostre chiamate, 349 238 6666. Poi parliamo un po' anche di Serie B, perché c'è chi chiede se non c'è nessun giovane che si è messo in luce e che sia pronto già per la Serie A. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. C'è chi chiede se in Inghilterra e Germania i calciatori non vengono pagati. No, assolutamente che vengono pagati, però in questo caso dobbiamo dire che noi stavamo parlando prima dell'Italia. Se dobbiamo dire che in Italia i giocatori non vengono pagati, non corrisponde alla realtà dei fatti. Poi questo non significa che dalle altre parti non vengono pagati, anche se però in Spagna, fanno la domanda sulla Germania e sull'Inghilterra, in Spagna il sistema è un po' diverso, e a prescindere e a parte Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e quant'altro, le altre ci sono a volte dei casi che non sono poi così sporadici. Ci sono dei casi, scusate, in cui i club sono tecnicamente in Spagna decotti e sono tenuti in piedi, grazie all'intervento delle comunità autonome, no? Quello che da noi sarebbero più o meno le regioni, che in un modo o in un altro iniettano dei capitali all'interno dei club per non farli fallire. Però se non ci fosse questa sorta di aiuto della regione, diversi club spagnoli sarebbero in condizione di non pagare i giocatori. L'altra cosa che intendevo è che, mentre in Germania, per esempio, il mercato di gennaio è un mercato che, a meno che ci sia stato qualche grave infortunio o qualche problema enorme, però in Germania non vedrete mai fare i grandi colpi che vengono fatti come in Italia o in Inghilterra. Quindi è da noi che un giocatore che magari non trova spazio nel suo club attuale a gennaio pensa di venire a giocare, perché tanto le grandi squadre tedesche, ma neanche quelle piccole, se non c'è proprio una necessità vera, non vanno a fare un investimento a gennaio. Anche in questo hanno un approccio estremamente razionale, forse anche troppo rigido, i tedeschi. Però la squadra che abbiamo fatto è questa, ce la portiamo fino a fine anno. Si chiama programmazione, si chiama, credo, programmazione, che significa anche resistere a qualche problema in campo che può fisiologicamente succedere, però insomma solitamente andare avanti con il progetto con cui si è iniziato non è spesso una cattiva idea. Posso chiedere a Pierfilippo Capello se qualche telefonata per il papà, per Fabio, è arrivata? Ce ne sono state tante, ma non ha risposto nessuna. Non ha risposto a nessuna, questo non risponde il figlio. No, questo l'abbiamo visto. È una battuta, però a tutte le telefonate ha risposto che in questo momento non è interessato. Quindi non... alla domanda rispondo sì, certo, ci sono state tante telefonate di tutti i tipi e a tutti quanti lui ha risposto che in questo momento non è interessato. Ma quindi cosa serve? Serve che manca ancora l'idea giusta, il progetto giusto, manca la tempistica giusta, perché bisogna aspettare l'anno prossimo? Non lo so neanche in questo momento. Tutto quello che è passato davanti ai suoi occhi nulla gli ha fatto venire voglia di anche solo prendere in considerazione l'offerta. Quindi se non c'è, è in una situazione in cui può permettersi di fare o di scegliere anche di non fare niente se qualcosa non lo stimola nel modo corretto, e penso sia la situazione migliore per un allenatore non dover per forza allenare o andare comunque da qualche parte. Quindi aspettare di vedere se ci sarà mai qualcosa che gli faccia venire voglia. Perché in generale quello dei mercati e degli allenatori anche a livello europeo mi pare sia il mercato forse più interessante, anche nei prossimi mesi sono in tanti che spingono anche per rientrare, anche nomi importanti, Michele, anche nomi italiani, insomma allenatori che sono fuori dal giro oramai da diversi mesi, che quindi hanno anche bisogno di ricominciare ad allenare. Tra l'altro possono anche farlo magari con buoni risultati. Donadoni a Bologna, certo, lo dimostra. Ce ne sono tanti che forse oggi dovrebbero rientrare. Saluto Pierfilippo Capello, grazie. Grazie a voi, buona continuazione, saluti a tutti. Grazie all'avvocato Capello. 800 24 00 24, Franco da Novara. Franco. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Intervenivo per la questione Lavezzi-Inter, io sono interista, e, ma mi chiedevo se è un'operazione che valga la pena o meno, cioè considerando che ha 30 anni, considerando che come minimo chiederà un contratto di 3 anni, alle cifre che parlano è un'operazione che costerà più di 30 milioni sicuramente, ed è un giocatore che mettendo i più e i meno delle sue qualità, la sensazione è che il meglio l'abbia già dato. Sicuramente conosce il campionato italiano e questo è sicuramente un vantaggio. Mi chiedo se alternative come Nasri, per esempio, del City, che è più giovane e che pare sia anche lui in partenza, non possa meglio cogliere un acquisto di prospettiva. Sì, se ci sia qualcosa di meglio. A qualcosa di meglio cercando in giro sicuramente ci può essere, e quello che dice Franco da Novara è assolutamente vero. Bisogna mettere i pro e i contro. I pro di Lavezzi, che è pronto all'utilizzo, è un giocatore forte che secondo me a 30 anni può ancora fare in 2-3 anni qualcosa di molto molto importante, e che ha grandissima voglia di tornare in Italia. Questi sono i pro. È ovvio che i contro, se lo prendi a gennaio e già parti con un meno 6-7 milioni di euro, poi devi fare un biennale barra triennale con le varie opzioni. Secondo me, se il calciatore vuole arrivare in Italia, deve capire che si deve adeguare almeno ai parametri economici. Poi su Nasri il discorso può essere lo stesso, è vero, sì, una situazione diversa da Lavezzi, però anche lì, se dobbiamo parlare soltanto di soldi e di aspetto economico, anche lì bisogna aprire la cassaforte. Sì, Ranocchia va al Bologna, ne stanno parlando. Va all'estero. Ne stanno parlando con il Bologna, e all'estero ci sarebbero almeno due situazioni gradite al calciatore, forse un po' meno alla gente, però forse la gente lo vorrebbe tenere più in Italia. La Fiorentina prende Lisandro Lopez o Mexès? Mexès credo che era una cosa, soprattutto per l'estate, come ne parlammo, se non sbaglio era la fine di giugno o inizio luglio, non se ne fece nulla, quindi non credo che oggi la Fiorentina abbia soprattutto la necessità di andare a prendere uno come Philippe Mexès. Nino da Novara, Nino. Sì, eccoci. Buongiorno e buon anno. Volevo chiedere al direttore Criscitiello cosa pensa del Palermo, nel senso, Zamparini riuscirà a prendere questo talento Sensi? Anche se io chiamo da Novara, secondo me Viola potrebbe fare anche a caso del Palermo, secondo me è uno dei migliori registi della Serie B. Però Nino, Dino da Novara, ovviamente ti devo rispondere che Viola arriva proprio al Novara dal Palermo, quindi il Palermo ce l'aveva in casa, e questa è un'osservazione che fai giustissima. Ovviamente parliamo di giocatori, uno è un 88, Nicolas Viola, che era stato votato 4 anni fa come miglior giovane del nostro calcio, e poi invece qualcuno non l'ha seguito. Viola arriva dal Palermo, il Palermo non ci ha creduto il Novara, e secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Viola è un grandissimo giocatore, adesso attenzionato soprattutto dal Torino. Sensi è un 95, il Palermo si è mosso bene perché potrebbe fare qualcosa, visto che Zamparini e Foschi hanno grandi rapporti e la Cesena non se la passa bene, è una situazione debitoria pari a 35 milioni di euro, e quindi vendere Sensi adesso a gennaio servirebbe tantissimo alla società romagnola. Per quanto riguarda invece Viola, è un giocatore che è un 88, secondo me può fare ancora 4-5 anni alla grandissima, e il prossimo anno lui, a prescindere dal Novara, merita comunque la Serie A. Allora facciamo i nomi dei giovani di B già pronti, se ci sono, per la Serie A magari già a gennaio. Allora, gennaio credo di no, perché i giovani, come diceva prima Nino, Sensi potrebbe, che è un 95, potrebbe andare al Palermo, altrimenti deve aspettare comunque l'estate. Budimir, che è la vera scoperta del Crotone, ha un diritto di riscatto a 1 milione di euro, lo vuole la Lazio, però se il Crotone qualora dovesse privarsene a gennaio, significa non mi interessa di andare in Serie A. Budimir quindi dovrà restare a Crotone e poi lo metti sul mercato. A me piacciono molto due giocatori giovanissimi 97-98 del Perugia, che sono Zebli e Drolet. Per esempio Mandragora, ne parlavamo, il Genoa adesso è a Pescara, lo sta cedendo comunque alla Juventus. Un altro centrocampista che un po' mi ricorda Badu dell'Udinese è Auger della Salernitana. Auger è un centrocampista di quantità e qualità, piccolino, bassino, ma davvero una forza esplosiva. Per parlare del Novara, prima parlavamo di Viola con 88, ma credo sia assurdo che in Serie A non sia ancora arrivato una mezzala come Faragò, che è del 93, o Dickman, che è un esterno alto a 5 a destra. Insomma, volendo c'è da scegliere anche in Serie B. Ma Barreca del 95, che è il terzino del Cagliari, ha giocato soltanto alla fine del girone di andata, è di proprietà del Torino, e Barreca l'anno prossimo per il Toro è pronto, così come Dezzi, che è un 92 del Napoli, credo che sia un ottimo giocatore. Keita dell'Entella lo vuole la Roma, non a caso. E poi c'è Alexis Zapata, che è del 95, è di proprietà dell'Udinese, gioca per Perugia, però secondo me è un po' in difficoltà perché Bisoli guarda soprattutto la fase difensiva e non tanto a quella offensiva, ma parliamo di un grandissimo esterno d'attacco. Poi Ricci, Capezzi e Martella del Crotone. Quanti ve ne abbiamo detti? 20? Ricci sono della sufficienti. Roma, Ricci della Roma. C'è un amico che chiede il mercato in entrata del Torino. A me interessa anche quello in uscita, perché la domanda delle domande, secondo me, di questo mese di gennaio è se Maximovic vale o no 20 milioni di euro. Secondo me no, ne vale 12-13. Cigarini bisogna... Se va al Napoli? Se va al Napoli, ho capito, ma il Napoli secondo me non li tira fuori 20 milioni di euro, ragazzi. Il Torino ha bisogno di un centrocampista, sta parlando con l'Udinese. Per quanto riguarda invece Gazzi, è interessa al Cagliari, ma sarà ceduto solo se prima il Torino farà un'entrata a centrocampo. Poi c'è un amico che chiede se Valdifiori potrebbe essere il nome buono per l'Inter, se cerca un regista. Credo assolutamente di no, perché Valdifiori, come ha detto il suo procuratore Mario Giuffredi, resterà a Napoli almeno in questa stagione, si giocherà le sue carte. Valdifiori non si muove da Napoli, mentre seguirei la pista per la difesa dell'Inter, Izzo del Genoa. Lì è una storia da raccontare clamorosa, dove il Napoli con il direttore Bigon lo ha perso per 150.000 euro e lo aveva dato per 20.000 euro in comproprietà all'Avellino, e poi si è infilato il Genoa e l'ha preso il Genoa. Izzo che potrebbe andare a prendersi il posto di Ranocchi e chissà forse di Juan Jesus. Ci resta un minuto. Marchetti rinnova con la Lazio? Ad ora no, ma i presupposti ci sono tutti, così come Sorrentino con il Palermo. Oggi ballano un po' di soldini. In Spagna, in Francia scrivono che la Lazio prende Bisevaz del Lione. Non mi risulta, se lo scrivono loro ci fidiamo. Ci fidiamo. Juan Jesus va alla Roma? Doveva andare in estate, erano vicinissimi, l'operazione la stava facendo Calenda, che è un procuratore molto vicino a Walter Sabatini. Non se ne fece nulla, secondo me può essere un buon cavallo di ritorno. E poi, se vogliamo parlare dopo anche di giri di bomber, qualcosina comunque potrebbe uscire. Vai con i giri di bomber. No, giri di bomber, non vorrei essere ripetitivo, si parte sempre da Manolo Gabbiadini, perché il Napoli, nonostante non lo dica, sta provando a prendere, ma solo in prestito, al massimo, con un diritto di riscatto, Ciro Immobile. E poi bisogna comunque considerare che oggi parliamo di Perotti. Perotti è un giocatore molto molto importante per il Genoa, però il Genoa ha un obbligo, non una necessità, un obbligo di venderlo, e l'unica società che oggi potrebbe prendere a gennaio Perotti per risolvere parzialmente i problemi economici del Genoa è la Roma. Sogliano, il nuovo direttore sportivo del Genoa, non so cosa andrà a fare Sogliano, visto che comunque è uno di potere e decisionale, credo che però Preziosi farà tutto da solo. Come strano, eh? Come capita. Ci fermiamo qui per il momento. Del mercato vi abbiamo detto veramente tutto. Io ringrazio Michele Criscitiello, che lascio alle dirette lunghissime su Sport Italia da oggi fino al 1° febbraio, per il mercato, che lo ripetiamo è anche una questione fisica per i giornalisti che seguono il calciomercato. Noi torniamo subito dopo il GR delle 15, parliamo anche di Ferrari. 800 24 00 24. Ciao, tutti con... Che dire, arrieccici. Tutti convocati. It doesn't want to shine senza guardare, e dove che tutte le giorni che la renna va a faria, ma poi non ridi più e lontano sono va. Tutta vita è così e ta sti papà non morire e aspetta. L'acqua te in fondo va, tanto l'aria è un anno, Pier. Un anno, sì, esatto. Sì. Un anno esatto. È un anno esatto, un anno esatto. Penso, ma come complimenti che mi avete emozionato. Bello di Pino Daniele, ovviamente. È stato un anno, è stato un personaggio schivo, introverso durante la sua vita, ci ha regalato dei capolavori incredibili. Questa qui, quando chiove, è fantastico, no? Tutta la vita se ne va così, racconta proprio il trascorrere dei giorni, ed è molto emozionante. Quindi insomma, gli rivolgiamo un pensiero, ed è rimasto ovviamente nel cuore di tutti, dei napoletani come De Luca, che sicuramente avrà caldeggiato questa clip in maniera particolare, ma io credo di tutti gli italiani, perché oltre ad essere un grandissimo musicista, insomma, raccontando sentimenti ed emozioni che sono assolutamente universali. Bene ha fatto il Napoli sicuramente a regalarsi questa colonna sonora di al San Paolo, perché secondo me, insomma, ci sono città nelle quali c'è un'identificazione profonda fra squadra e città stessa, appunto, e fra una canzone, una squadra e una città, e questo è il caso di Napoli sicuramente. Sì, chissà se mercoledì sera Napoli-Torino non ci sia magari qualcosa di particolare per ricordare ancora una volta Pino Daniele. 800-24-00-24, siamo anche alla vigilia di una giornata di campionato che inizia domani sera con il derby tra Genoa e Sampdoria, poi mercoledì ci sarà tutto il resto fino appunto a Napoli-Torino, ore 20:45 il posticipo. Siamo all'inizio del mercato, ne abbiamo parlato abbondantemente nell'ora precedente. A proposito di mercato, Pier, senti un po' questa notizia. Os moleque do gueto que arrasta massa, Eddie Cid, Ronaldinho, tá ligado? Time aí, os moleque do gueto que arrasta massa, Eddie Cid, Ronaldinho, os moleque do gueto que arrasta. Diga aí, Ronaldinho! Tenha fé, negão, pois você nunca está sozinho. Quem comanda. Allora, questo é Ronaldinho, Pierre, che sì. Canta, lo riconosci? Sì, è Ronaldinho. Allora, Ronaldinho, che ha 35 anni, potrebbe presto tornare in Europa a giocare. Lo ha detto suo fratello, che è anche il suo procuratore. Ha detto: ho ricevuto 3 o 4 offerte da club inglesi. Mio fratello ha 35 anni, ma non ha mai subito un infortunio grave in carriera e può giocare per almeno altri 3 anni. Beh, insomma, allora, l'Inghilterra secondo me non è l'ipotesi migliore per lui. No, decisamente nel senso no. Nel senso che mi sembra il calcio in assoluto più lontano dalle sue caratteristiche, che per carità hanno fatto la differenza negli anni d'oro, l'avrebbero fatta in qualsiasi paese al mondo, ma oggi insomma lo immaginiamo un po' appesantito, un po', diciamo, un po' più lento rispetto a prima, probabilmente ancora con dei colpi di genio e di classe, perché i piedi, sai, quelle sono cose che ti rimangono come doni di natura, quindi sicuramente può ancora regalare grandi giocate, però l'Inghilterra non è certamente lo spettacolo, l'ambiente migliore secondo me dal punto di vista tecnico. Poi lui sicuramente è un giocatore, è un giocatore come ha ragione, al di là dell'interesse personale, professionale ed economico, il fratello procuratore nel dire che non ha mai avuto grandi infortuni. Non ha avuto una carriera, secondo me, particolarmente usurante. Sì, non è nemmeno uno, secondo me, che si è mai usurato in allenamenti. Appunto, eh? Sì, esatto. Quindi voglio dire, si è riposato spesso. Può darci pure che questi 35 anni possano corrispondere, diciamo, ai 32-33 anni di un giocatore magari che si è usurato un po' di più. Detto questo, insomma, mi sembra che per, e con questo ribaltiamo tutte le teorie mediche di preparatori sportivi che dicono che invece per durare fino ai 40 anni si deve fare esattamente il contrario, cioè allenarsi con grande intensità. No, però io, tanto per essere chiaro, non penso che lui sia in grado di ritagliarsi una dimensione da giocatore che può fare 38 partite in maniera decisiva. Penso che possa svernare, poi dipende molto dal carattere, penso che possa svernare in qualche campionato europeo, penso alla Turchia, penso alla Grecia, come ipotesi un pochino più tradizionali che mi vengono in mente, per un discorso di qualità delle squadre e di soldi. Quindi comunque in Turchia i soldi ci sono anche dei grandi giocatori, e secondo me può essere il calcio suo, e lì può fare qualcosa. Sì. Quel qualcosa che è magari decidere qualche partita, fare qualche gol. Non penso francamente a un giocatore che viene e rivoluziona, perlomeno a grandi livelli, insomma, non l'ha fatto anni fa al Milan, no? Comunque era molto più giovane, faccio fatica a pensare che possa diventare un crack per una dimensione di una grande squadra europea. Invece un altro vecchietto, Totti, oggi Larry Blasi in un'intervista dice: ho dato l'addio io prima che lui, ma l'anno prossimo Francesco compie 40 anni e ogni stagione ha il suo melone. Si è goduto tutto, resterà nel mondo del calcio, ma il ritiro ci siamo, ha il desiderio di fare altro. Beh, ci sta e forse... Qualche maligno forse dice ci sta da un po' di tempo. Guarda, ci sta da un po' di tempo. Sicuramente questa stagione fino a questo momento è completamente disgraziata. Forse sarebbe stato, no, potendo ragionare... col senno di poi poteva essere più strategico chiuderla un po' prima, un anno, 2 anni prima, devo dirti la verità, che una delle cose più sconvolgenti in positivo della carriera di Totti è stata la longevità che soprattutto nel periodo di Zeman, quello immediatamente successivo, è riuscito a ritrovare alla Roma quando aveva ormai 36-37 anni, quindi secondo me non è così clamoroso. Probabilmente sì, un anno fa poteva chiudere, probabilmente in questa stagione così sfigata fino a questo momento gli sarà venuto in mente anche in qualche momento il pensiero potevo smettere prima, potevo smettere magari a giugno, però insomma francamente non mi sembra certamente il caso di uno che sta lì che si trascina per lo stipendio e perché non sa dire di no. Quindi la verità è che Totti è stato un giocatore oltre che straordinario anche clamorosamente longevo, perché fino a pochi mesi fa ha comunque regalato degli sprazzi eccezionali. Ecco, adesso un anno dal derby del 2-2, che è una partita dove al di là del selfie opportuno non opportuno sotto la curva, il dibattito comunque era stato decisivo, questo è stato Totti anche nella stagione scorsa, lo è stato. Quindi poi è ovvio, poi si può discutere, il dibattito è a Roma è particolarmente vivo sul fatto che possa aver condizionato in maniera involontaria, possa aver condizionato le scelte della Roma, ma è normale, anche Del Piero condizionava le scelte della Juve. Se c'hai Zidane in casa. Beh, intanto vediamo se il suo ritorno adesso, dopo la sosta, in qualche modo aprirà anche un ombrello protettivo su Garcia. Ma non lo so, mi sembrano due storie francamente separate. A me sembra che Totti sia mancato molto anche dal punto di vista della comunicazione, un po' perché lui non è mai stato, l'abbiamo detto mille volte, un leader dal punto di vista della comunicazione. Lui è un bravissimo ragazzo, un campione meraviglioso ed è un leader tecnico della squadra, cioè uno che fa quello che deve fare per la squadra. Poi è amato da tutti, insomma, da quello che mi risulta, veramente senza se e senza ma, però non è un giocatore di quelli che si mette alla Buffon ogni volta che c'è un problema, lo vedi che va per primo davanti alle telecamere perché sente di avere anche quel tipo di compito. Da questo punto di vista uno che si fa un pochino più fatti suoi, ma per caratteristiche normali e assolutamente legittime. Quindi io non so se ci sarà un, anche perché non so dirti in questo momento che tipo di feeling ci possa essere tra Totti e Garcia, nel senso che Totti ha iniziato la stagione, un paio di piccole umiliazioni le ha ricevute, ti dico la verità, insomma, all'inizio della stagione, no? Non è detto che abbia voglia di spendersi per proteggere un allenatore in questo momento particolarmente debole, e anche questo è un tema sulla ripresa del campionato che, lo ricordiamo, riparte domani con il derby di Genova. Lo sai, Pier, chi è l'allenatore con la media punti maggiore dopo la sosta? No, non lo so. Aspetta, sono impreparato. Te lo faccio sentire. Importante per noi andare con la consapevolezza di poterci misurare al pari contro di loro, sapendo che ci sono dei valori poi in campo che però devono essere sempre dimostrati, e quindi noi, per noi è una grande vetrina, cercheremo di fare tutto quello che è possibile per mettere in difficoltà il Milan. È Donadoni nella sua carriera, e vedremo se anche col Bologna mercoledì dopodomani a San Siro contro il Milan, in una credo delle partite trappola di questa giornata, la partita più difficile, questo è il mio personalissimo cartellino, è ovviamente la trasferta di Empoli per l'Inter, però attenzione perché Mihajlovic ha appena rimesso il naso fuori dal pelo dell'acqua e il Bologna è uno degli avversari peggiori in assoluto. Mihajlovic non ha una brutta classifica a patto che faccia un gennaio diverso da quello che ha fatto Inzaghi l'anno scorso. L'anno scorso il Milan crollò dopo la trasferta negli Emirati, dopo la tournée, dopo la vittoria illusione contro Real Madrid in amichevole, crollò proprio a gennaio. Sassuolo, Atalanta, la serie di sconfitte in casa abbastanza inquietanti. Quindi questo è quello che non deve fare Mihajlovic. Oltretutto, insomma, il fatto che ci sia come avversario, oltre che una vecchia volpe, anche un allenatore che appartiene al gota rossonero, al pantheon rossonero, e magari in qualche modo anche ai sentimenti, ai pensieri più reconditi, no, di molti tifosi del Milan. E che ha anche ammesso di sognare questo, comunque quella panchina, ovvio, legittimamente. È ovvio, legittimamente, per un motivo innanzitutto oggettivo, perché la panchina del Milan rimane ovviamente anche nei momenti difficili una panchina molto ambita e di un grande club, almeno potenzialmente un grande club. E poi perché c'è un legame, credo, anche affettivo molto forte. Quindi sono d'accordo con te, è un trappolone bello e buono. Penso che possa essere un po' più facile per il Napoli contro il Torino, ma magari non è così. Penso che Empoli certamente sia una partita complessa. Forse all'Inter può essere convenuto non affrontare l'Empoli prima della sosta, perché sappiamo che l'Empoli che ha chiuso dicembre in quella maniera così clamorosa, forse era la squadra più in forma del campionato. Grandissime scuse. Sì, intanto respinto il ricorso contro le tre giornate di squalifica per Otti. L'Inter non aveva fatto ricorso per le tre giornate prese da Felipe Melo. A proposito di Perotti, ed è l'ultima cosa che ti faccio sentire, Pier, questa mattina fuori dalla FIGC. Siamo fiduciosi, vediamo se togliono qualche giornata, speriamo di sì. Senti, si parla di te in chiave Roma, è una piazza che tu gradiresti? No, quello no, non posso parlare. Ma qualcuno ti ha contattato da Roma? Hai parlato con qualcuno? Con Sabatini? No, io non ho parlato con niente. Il tuo procuratore? No. Insomma, però ti piacerebbe andare a Roma? Io non posso parlare. Tu chi ti aspetti che si muova per primo? Credo proprio la Roma, che sta rifacendo gli esterni, magari prende anche il Sharawi. Sì, anche se però in realtà farà anche il trequartista, giocatore tatticamente utile, giocatore molto tecnico, giocatore tra l'altro che si conosceva prima ancora, è venuto al Genoa, esperienza a Siviglia, insomma, giocatore di livello. Io credo che il Genoa abbia bisogno di un pochino più di sostanza, perché la classifica non è straordinaria, anche se l'illusione di pensare che un paio di posizioni siano già andate, che quindi la corsa per la salvezza possa essere una corsa abbastanza facile, io credo che è un'illusione che possa essere pericolosa, ma che ci possa essere nella testa dei dirigenti del Genoa, del Palermo, di queste squadre che sono così un pochino sopra la linea di galleggiamento. Io penso che Perotti alla Roma possa far bene, sicuramente penso che anche il Milan abbia bisogno di qualità tecnica, quindi non lo sottovaluterei, e certamente Preziosi può fare cassa, ma ha bisogno secondo me anche di robustire la squadra, quindi di prendere un po' di sostanza. Ho visto l'ipotesi Cerci, potrebbe essere un'ipotesi di rilancio. Cerci mi sembra perfetto per il Genoa, così sì, se ha voglia di andare, no? e se ha voglia di mettersi in discussione. Il discorso che vale anche per il Sharawi, oggi qualcuno scrive il Sharawi ha rifiutato l'ipotesi per il momento Genoa perché vorrebbe rimettersi in gioco in una realtà più grande, ad esempio la Roma, e questa è un'ipotesi, Pier, che a me piacerebbe tantissimo, affascinante l'idea di El Sharawi in una grande come la Roma, però vedremo, perché è tutto da disegnare da qui al primo febbraio. Pier, ti saluto, ciao. Ci vediamo domani, forse ci vediamo anche. A domani forse ci vediamo anche, però questo è il regalo del giorno prima della Befana. Sì, il regalo. Oh. Ciao Pier, ciao. Dobbiamo parlare di Ferrari. Iniziato da pochi giorni quello che per noi dovrebbe essere l'anno di ritorno in vetta. Nel 2015 abbiamo fatto passi enormi, abbiamo dimostrato di essere competitivi e soprattutto siamo riusciti a ricreare un gruppo. La squadra oggi c'è, è una squadra forte e coesa, ci manca poco per arrivare dove vogliamo arrivare. Siamo consapevoli di avere avversari forti, ma non li temiamo, stiamo lavorando tanto e con la giusta cattiveria agonistica per presentarci in Australia come la squadra da battere. Non possiamo fare altrimenti se vogliamo rispettare la nostra storia di team più vincente della Formula 1. Il fatto della performance della scuderia è un fatto essenziale alla Ferrari, una cosa in cui abbiamo investito tantissimo tempo, parecchie risorse finanziarie per dare la possibilità alla scuderia di in effetti di lasciare questi ultimi anni di scelte tecniche che magari non erano indovinate. Io sono sicuro che il lavoro che Maurizio e la squadra hanno fatto nel 2015 è una base eccezionale per avere una stagione di successo nel 2016. Oggi è il gran giorno della Ferrari a Piazza Affari, titolo subito sospeso al ribasso, ma per tutte queste informazioni vi rimandiamo a Focus Economia, ai nostri punti ora sulla borsa. Le parole di Marchione le avete sentite. Alberto Sabatini, direttore Autosprint Auto, ciao. Ciao, buongiorno a tutti quelli in ascolto. Parole impegnative, eh? Sì, parole impegnative, però Marchione non poteva dire altro, sì. Perché dopo la stagione 2015 in cui la Ferrari si è risollevata e ha giocato da sfidante contro la Mercedes, è chiaro che bisogna puntare più in alto, bisogna puntare a vincere o a combattere contro la Mercedes, a darmi pari gara per gara, non approfittare solo di qualche passo falso dei tedeschi come è stato nel 2015. E infatti molti dicono, cioè tutti noi nell'ambiente diciamo, che l'anno veramente difficile per la Ferrari sarà questo, perché in fondo fare bene nel 2015 dopo il disastro del 2014 non era un'impresa, sì, non era impossibile. Non era un'impresa impossibile. La vera impresa sarà eguagliare la Mercedes, non soltanto essere i numeri due. Sì, dire ad esempio, come ha detto oggi Marchionne, vogliamo essere la squadra da battere già in Australia, che significa a marzo, e considerando che c'era un gap quasi di un secondo ancora alla fine della scorsa stagione, vuol dire anche mettere un po' di pressione su Arriva Bene e sul team. Sì, gli ha messo molta pressione, non soltanto un poco, perché praticamente è nello stile di Marchionne, che chi segue il mondo dell'auto e del prodotto, della produzione di serie, conosce bene. Lui mette molta pressione e pretende molti risultati immediati da tutti i suoi manager, gli dà molte carte da giocare, ma pretende risultati in tempi strettissimi. E sì, questo è il problema che avrà Arriva Bene, cioè quello di essere competitivo fin dalla prima gara. Diciamo che rispetto all'anno scorso la situazione si pone in questi termini. L'anno scorso la Ferrari ha rovesciato la squadra, ha preso nuovi piloti, Vettel in testa al posto di Alonso, ha rovesciato lo staff tecnico, ha rinunciato ai tecnici di punta dell'anno scorso e ha promosso tutti i numeri due nel ruolo di responsabili in tutti i vari settori, motore, aerodinamica, telaio, eccetera. Invece ha dovuto accontentarsi di una macchina bene o male rimaneggiata sulla base di quella del 2014, perché quando Marchionne e Arriva Bene hanno assunto il comando della Ferrari, la vettura del 2015 era già stata progettata e parzialmente costruita. Adesso invece si disegna da un foglio bianco. Quest'anno è il contrario, la squadra rimane quella, non viene rivoluzionata. Piloti, tecnici sono gli stessi, con un anno di esperienza e di lavoro insieme tra le spalle, però hanno potuto rivoluzionare la macchina, che sarà particolarmente diversa. Non a vista, perché non si notano ormai nelle Formula 1 le differenze estetiche, ma nella sostanza sotto la pelle di carbonio. Bisognerà anche essere bravi a interpretare i cambiamenti che ci saranno, sì, anche quest'anno di regolamento, e che spesso rappresentano un mezzo salto nel buio, dove la Ferrari ha quasi sempre perso. Vero, la Ferrari ha sempre dimostrato che nel momento della svolta regolamentare aveva un po' di inerzia rispetto agli altri. La forza della Ferrari è quella di migliorare giorno per giorno la messa a punto, ottimizzare, come si dice in gergo, la prestazione dell'auto col tempo, non improvvisarsi subito veloci come fanno altri. Però adesso quest'anno non c'è una grossa svolta regolamentare, quella arriverà nel 2017, quindi il 2016 sarà basato sull'esperienza raccolta lo scorso anno, e la Ferrari ha capito che dei tre difetti principali della macchina del 2014, due li hanno già corretti nel 2015 e uno ancora da correggere, e lo correggeranno, che è il comportamento delle gomme. Che è poi il nodo su cui credo si giochi un po' l'esito della prossima stagione. Sì. Poi ci sono anche gli scaramantici, c'è un amico che scrive: Marchionne promette una Ferrari vincente, questo significa che non sarà mai presente al box. Beh, in effetti quando è venuto non è che hanno fatto faville, però questo si diceva anche di Montezemolo, sono anche, se vogliamo, un po', non so, coincidenze, insomma, ci scherzano tutti nell'ambiente, però è vero che quando c'è il capo in pista le cose non sempre vanno bene. Credo sia disponibile Marchionne a stare in fabbrica, a casa, in ufficio o dove vuole lui se la Ferrari torna vincente. Ti faccio l'ultima domanda, Alberto, invece su Vettel. Anche per Vettel questo è l'anno più difficile, promosso, per carità, il miglior debuttante della storia della Ferrari. Poi o quest'anno vince il mondiale, oppure credo anche il suo 2015 andrà riletto in maniera diversa. Beh, oddio, Vettel ha poco da dimostrare. Assieme a Hamilton è il più forte pilota del mondo in attività. Almeno, diciamo, se escludiamo Alonso, che a scelte strategiche ha dimostrato di avere grosse grosse carenze nello scegliere la squadra giusta nel momento giusto. Vettel è una certezza, una garanzia, è anche abbastanza fortunato, quindi io credo che Vettel non abbia niente da dimostrare e probabilmente ad armi pari lo vedo un po' più costante di Hamilton, che tra alti e bassi è anche abbastanza umorale, quando va forte va fortissimo, ma in certi momenti si fa stranamente, perde stranamente la bustola anche nei confronti del suo compagno di squadra, figurarsi degli avversari. Quindi Vettel non ha nulla da dimostrare, deve soltanto avere, ed è anche non preoccupato da un compagno di squadra che non gli darà grossi problemi. Raikkonen è un suo amico e ha capito di essere ormai di fatto un numero due, quindi non sì, a differenza non di quanto succede squadra, in Mercedes tra Rosberg ed Hamilton, altro tema che sarà appassionante provare a capire con l'inizio della nuova stagione. Esattamente. Grazie Alberto Sabatini. Prego, grazie a voi. Grazie ad Alberto Sabatini. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 14. Arrivederci ragazzi, ciao!